Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Se non fossero pericolosi, gli omofobi mi farebbero pena. In tema di mascherine che bisogna portare da casa, Regione Lazio, non solo dobbiamo portarla da casa, ma ne pretendono in un istituto una ogni 2 ore, nell'altro una ogni 4. Quindi chi ha 2 figli deve mettere in conto una moltitudine di mascherine al mese. Se io misuro la febbre a casa e mia figlia ha più di 37 e mezzo, quanto è, io ho il tempo di avvisare il lavoro, ho il tempo di organizzarmi e tutto il resto. Se la porto a scuola e la misuro a scuola e io subito già sono andato via perché non posso stazionare lì, mi chiameranno al lavoro. Nella scuola di mio figlio a Roma sono stati trovati dei casi di positività tra il personale, quindi chiusa per 10 giorni. Quindi si comincia così. Se per ogni positività chiudiamo 10 giorni la scuola, ci rivediamo nel 2023 qui da me a Roma. Ciao. Come dicevamo prima, e lo dico all'ascoltatrice, in tutta teoria dovrebbe decidere la ASL su questo. O su ogni singolo caso, se chiude la classe, se chiude l'intera scuola. E certo è un problema, specialmente per chi ha più figli, questa cosa qua, E chi ha più figli piccoli, no? Ha maggiori difficoltà. Non è male il ragionamento che faceva l'ascoltatore sulla misurazione a casa, Non è sbagliato. E qualcuno dice: caro Spezia, nella mia scuola le mascherine sono arrivate e distribuite. Sabato ne sono arrivate 12.500. Un messaggio appena arrivato da un ascoltatore. Questa è un'ottima notizia. Speriamo che continuino ad arrivare, perché l'altro ascoltatore, quello che parlava delle mascherine, ha dato un'ottima risposta a chi prima ci chiedeva: ma saranno mica un problema le mascherine? Sì, sono un problema, perché se devi rifornire i figli di 4 mascherine al giorno, se non 6, perché le cambiano ogni 2 ore, iniziano ad essere, metti anche che le trovi a 50 centesimi, iniziano ad essere 3 euro al giorno. Insomma, non so. Già l'anno è duro dal punto di vista economico, mettici pure questa. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. E a partire dalle 8, ovviamente, l'800-24-00-24, se volete intervenire in diretta. È la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, ed è il mitico lunedì 14 settembre, il giorno nel quale iniziano la scuola 5,6 milioni di studenti. Più o meno, perché ci sono anche case delle scuole, come si diceva, chiuse, nemmeno aperte. Personale scolastico positivo chiuso per 10 giorni. Iniziamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, alle aperture, e molte sono dedicate proprio alla scuola. La storia che vi riferivo prima dal Messaggero: in classe dopo il test di gruppo, il piano analizzare la saliva depositata in un contenitore dagli alunni di un'intera classe. I tempi saranno velocizzati, solo se sarà individuato il virus si procederà a esami singoli. La Stampa: riapre la scuola, pediatri in allarme. Il Sole 24 Ore: a scuola senza 150.000 prof e doppi turni nelle università. Conte e la scuola: non sarà facile, il titolo del Quotidiano Nazionale. Scuola: la prova più difficile, il titolo del Corriere della Sera. Prof terrorizzati dal virus, è il titolo di Libero. L'augurio di Conte agli alunni, titola La Verità: adesso sono solo fatti vostri. La Repubblica e il Fatto Quotidiano scelgono invece l'inchiesta giudiziaria sulla Lega. Ecco le carte che accusano la Lega, il titolo della Repubblica. Ci arriveremo tra poco a questa vicenda. Il Fatto Quotidiano: verbali della Lega, società fantasma e soldi al tesoriere Centemero. Il Giornale, svolta della Meloni con il no vanno a casa. La leader di Fratelli d'Italia nel centrodestra sta crescendo l'idea, appunto, di spingere al voto no per il referendum perché questo avrebbe un impatto diretto sul governo. Ed eccoci qua, iniziamo. Iniziamo da cosa? Voglio portarvi innanzitutto su la netta impressione che ho avuto leggendo l'articolo a pagina 19 del Messaggero. La netta impressione è che non abbiamo capito niente, o molto poco. Perché se il racconto, e non abbiamo motivo di dubitarne, che ci fa Cristiana Mangani appunto a pagina 19 del Messaggero è vero, è appunto la dimostrazione che un pezzo del paese non ha capito nulla. La storia qual è? Discoteche piene a San Marino e locali di Rimini in trincea. La storia è esattamente questa. Si sono organizzati in silenzio, senza far circolare la notizia sui social. Hanno aspettato il fine settimana e poi via, perché senza ballare non si può vivere. Sono partiti da Rimini, Cesena, Pesaro, in barba al rischio contagio e la diffusione del Covid. Destinazione Repubblica di San Marino, perché lì di divieti non ce ne sono. E comunque i locali sono tutti aperti, mentre sulla riviera romagnola vige il divieto imposto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne prevede la chiusura almeno fino al 30 settembre. Ma fatta la legge, trovato l'inganno e a soli 20 km di distanza gli appassionati di salsa, merengue e reggaeton, così scrive Cristiana Mangani, ma penso che sia... la musica sia un po' diversa, quella che si suona là, si diceva, gli appassionati hanno individuato la loro zona franca. Ora, dopo il clamore che queste invasioni hanno scatenato, il governo locale ha imposto la mascherina, quantomeno nei luoghi chiusi, e ha ribadito la massima attenzione contro la diffusione del virus. Però, quando la musica impazza, il distanziamento è bello che dimenticato. Da Rimini e dalla Romagna in generale sale la protesta. Una richiesta di sospensiva è stata presentata al TAR dal Silbi, il sindacato dei locali da ballo, ed è stata respinta, così come la speranza del mondo della notte di tornare in pista prima possibile. Intanto a San Marino, appunto, si continua a ballare. Un po' la testimonianza che una parte di questi ragazzi niente ha capito. Tanto che peschiamo e pesco da Libero questo commento di Roberto D'Agostino, di Dago, che un articolo pubblicato in realtà su Vanity Fair e che Libero riprende per concessione di Vanity Fair, il quale si intitola così: per colpa dei giovani cretini il virus sta di nuovo circolando. Si dà il caso... Ma non è un caso che l'estate del Covid ha messo in scena la giovinezza più vigliacca, talmente vile e idiota che fa venire voglia di gettarla nell'olio bollente, come un sofficino Findus. Non avendo conosciuto i turbamenti del giovane Turle, sopprovato i dolori del giovane Werther, né si riconoscono negli sfinimenti del giovane Holden o nella disperazione del giovane Curcio, i covidioti non vogliono portare il lutto di nulla. Di fronte a una pandemia che sta ribaltando la vita di tutti in ogni angolo del mondo, non possono permettersi altro sacrificio che il divertimento. Finita la quarantena, malgrado 1000 avvertimenti e oltre 35.000 morti, si imbottigliano in discoteca a mezzanotte e si mettono a nanna alle 8 del mattino, strippati e lessi. E da tale rincoglionificio, non mi faccio mica rovinare le vacanze dalla paura del Covid, il virus è di nuovo dilagato. Chiude D'Agostino così: modestamente voglio avanzare una proposta. Dopo averli mandati a svacanzare in Sardegna o Panarea, ora portateli a visitare gli ospedali. La repressione del vociare e dell'allegria sarebbe automatica fin dall'entrata. Fategli vedere per gradi, a seconda dell'età, tutto: sale operatorio, obitorio, oncologia, AIDS, parto, grandi ustionati, bambini, pronto soccorso, rianimazione. Imparino che la gioventù non è una stagione della vita, è solo uno stato mentale. Così Roberto D'Agostino su Vanity Fair e poi su Libero. Andiamo sulla cronaca adesso. Allora, la vicenda la conoscete, ve l'ha raccontata GR24, l'avete sentita bene, l'abbiamo descritta anche poco fa. Ovviamente i contorni del tutto sono da stabilire, tra poco torneremo a parlarne alle 7.45 con al centro il tema della legge sull'omofobia, e però la storia è una storia di cronaca che ormai ben conoscete. la vicenda di Ciro Migliore e Maria Paola Gaglione. Ciro, che fino a qualche anno fa era Cira, era una ragazza e che è dunque un transessuale, e Maria Paola, la sua fidanzata, che sono stati investiti dal fratello di lei, 30 anni, 3 figli, forse anche, qua raccontano i quotidiani, preso in giro per questa relazione della sorella a Caivano, questo, quello che ormai, quello che è un luogo di confine, così lo trovate descritto anche su molti quotidiani, proprio perché aveva una relazione con un trans col quale intendeva andare a vivere. Dalla Stampa, pagina 3, con Antonio Piedimonte, inviato a Caivano, ci racconta della famiglia che crede al figlio aggressore, il suo è stato solo un incidente, e c'è, a dire il vero, in questo pezzo di Antonio Piedimonte, le parole della famiglia sono solamente un inciso all'interno del tutto. L'avvocato è l'avvocato della famiglia, Domenico Paolella, che raccoglie le prime reazioni dei genitori, che si dicono sconvolti, ma appunto il cuore di questo pezzo di Antonio Piedimonte è il racconto del Parco Verde come luogo di confine in molti sensi, uno di quei territori che si usa definire difficile, ma è un comodo eufemismo, specie per quanto riguarda le donne del quartiere, ancora vivo in tanti il ricordo delle orribili violenze sessuali e del barbaro assassinio della piccola Fortuna Loffredo. Da allora è chiamato il Rione degli Orchi, un destino che l'accomunò ad altri bambini del Rione come Antonio Giglio, 4 anni, anche lui abusato e lanciato da un balcone tra i degradati palazzi della periferia di Caivano, al confine tra le province di Napoli e Caserta, nel cuore della tristemente nota Terra dei Fuochi, sono nati i protagonisti di questa brutta storia d'amore e di morte. Caivano, che viene descritto anche per esempio nel pezzo del Quotidiano Nazionale a pagina 9, è un pezzo nel quale si racconta il contesto di questa vicenda, appunto si racconta del Parco Verde, che è un puntino rancido diventato in meno di 5 anni la roccaforte dello spaccio nell'area nord di Napoli, dopo aver tolto il primato a Scampia e Secondigliano, una roccaforte, come dicono gli inquirenti, nella quale i pochi incensurati che ci abitano sono ostaggio di una masnada di delinquenti che impone il coprifuoco, e anche il punto di vista che diventa costume e pensiero dominante, racconta Nino Femiani, appunto a pagina 9 del Quotidiano Nazionale. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Simone, chiamo dalla provincia di Parma. Ho 4 figli che vanno a scuola, iniziano la scuola stamattina. La più grande fa il liceo classico e la più piccola inizia la prima elementare. E l'unico denominatore comune in tutti e 4 i figli è la mascherina portatela da casa perché la scuola non ce l'ha. E a qualche ascoltatore che scrive: i figli bisogna dotarli di mascherine lavabili. In realtà la prescrizione è di utilizzare quella chirurgica, cioè l'indicazione che è arrivata è di usare quella chirurgica. Lo ricorderete nei giorni scorsi le parole del commissario Arcuri su questo tema, anche se poi in parte si è tornati indietro. Però insomma, capite che su questo c'è un pochino di confusione. E ricominciamo proprio dalla scuola, va alla rassegna stampa, vi voglio portare su due pezzi, vabbè, il titolo del Messaggero ve l'ho letto, ve ne ho dato conto, c'è questa ipotesi, continuano a circolare ipotesi di tutti i tipi, ragazzi, io non so più che cosa dire, questa di raccogliere la saliva di tutti gli studenti e poi fare i test rapidi, non so se si possano fare effettivamente, come si possono fare sinceramente, quindi la lasciamo là. Sospesa, mentre invece i numeri che ci dà il Sole 24 Ore a pagina 4 sono i numeri centrali di tutta questa vicenda. Scuole aperte, raccontano Eugenio Bruno e Claudio Tucci nella pagina che curano, ma mancano 150.000 professori e 20.000 ATA. Il personale appunto amministrativo. Il D-Day della scuola italiana è arrivato in 13 regioni su 21, stamattina suonerà la prima campanella. andranno in classe oltre 5 milioni e mezzo di studenti, altri 2 milioni e mezzo li seguiranno di qui a 10 giorni, con il Friuli Venezia Giulia che ripartirà il 16, la Sardegna il 22 e gran parte del sud il 24. Calcolare quanti e quali docenti ancora mancano all'appello non è facile. Alle difficoltà classiche di ogni inizio d'anno si sommano quelle collegate alla massiccia e per certi versi indispensabile opera di digitalizzazione e sburocratizzazione del meccanismo tradizionale di organici, immissioni, ruolo, graduatorie per le supplenze voluta dalla ministra Lucia Azzolina, che ha anche aggiunto, lo sapete, lo step della col veloce, ormai lo sappiamo, che ha portato circa 2500 insegnanti precari a poter cambiare regione ed avere un incarico a tempo indeterminato. Questo il quadro che ci raccontano appunto Eugenio Bruno e Claudio Tucci in Un Sole 24 Ore, che ci riporta anche il tema delle difficoltà di riapertura dell'università. Dall'altra parte il Messaggero, che del quale vi citavo quella vicenda della raccolta della saliva, questa ipotesi della raccolta della saliva, ci porta anche su un altro paradosso di questo inizio di scuola, ossia quello dei professori cosiddetti fragili, ossia quelli che hanno delle patologie pregresse e quindi possono, quelli che non debbono essere esposti al rischio di contrarre Covid-19. E il paradosso qual è? Il paradosso è che gli è vietato fare lezioni online, apprendiamo oggi dal Messaggero. Fragili per motivi di salute, non certo sul piano didattico, eppure non possono fare lezione neanche online. Sono tutti quei professori, definiti lavoratori fragili da una certificazione medica, che devono restare fuori dalla classe per motivi di salute e che per questo non possono neanche proporsi per insegnare online. Una recente nota ministeriale chiarisce infatti la posizione dei docenti a rischio. Cioè, possono fare molte cose, possono anche, lo scrive il Messaggero, richiedere di tornare al lavoro e farlo come personale amministrativo, per esempio nella segreteria, per così dire, non a contatto con il pubblico. E però lezioni online, la circolare ministeriale dice che non la possono fare. Speriamo che tutte queste cose poi si sistemino nel giro dei prossimi giorni. Visto che siamo però sui temi Covid, c'è una cosa che penso, che pesco dal Sole 24 Ore anche qua e che penso che interesserà molti. La trovate a pagina 20 del quotidiano. Non so quanti di voi abbiano prenotato dei viaggi e si siano sentiti offrire dei voucher in periodo di Covid. Ebbene, sappiate, lo scrive Marisa Maraffino, che i giudici potrebbero costringere le aziende che vi hanno offerto i voucher a darvi invece dei soldi. E questo è un elemento centrale. Perché? Perché le norme varate dall'Italia sono in contrasto con la normativa comunitaria, questo l'abbiamo raccontato molto spesso. Nell'attesa che l'Unione Europea decida se portare avanti o meno la procedura di infrazione contro l'Italia, la situazione potrebbe finire davanti ai giudici nazionali, visto che molte agenzie di viaggi, vettori e tour operator stanno negando i risarcimenti, costringendo i passeggeri ad attendere il decorso dei 18 mesi. Appunto, se la questione arrivasse davanti ai tribunali nazionali, questi potrebbero decidere di disapplicare le norme nazionali in favore di quelle comunitarie, stabilendo che il viaggiatore debba essere rimborsato subito, senza attendere i 18 mesi, come prevede la legge italiana. Abbiamo ancora 3-4 minuti prima della pausa e poi torneremo a parlare della vicenda di Caivano, soprattutto in relazione alla legge sull'omofobia. Però prima della pausa ci sono un altro paio di cose sulle quali vi voglio portare. Due grandi dossier che sono rimasti quasi sospesi. Vi ricordate il 14 luglio? Ve la ricordate la mega celebrazione? Ne abbiamo parlato lungamente anche qua su Radio 24, dell'accordo tra il governo e Atlantia per risolvere la questione autostrade, per uscire dall'impasse dell'idea del governo di ritirare la concessione ad Autostrade? Ebbene, siamo fermi, anzi siamo in stallo sostanzialmente, lo scriveva ieri La Stampa, Stampa che oggi ci ritorna nelle sue pagine di Economia e Finanza su pagina 22 con, ieri aveva parlato di una trattativa che rischiava di arenarsi, con Cassa Depositi e Prestiti che non escludeva il passo indietro. Ebbene, il governo lancia l'ultimatum ad Atlantia, ci fa sapere la stampa. Basta perdere tempo. Era meno semplice di quanto non sembrasse inizialmente, evidentemente. I Benetton, azionisti di riferimento di Atlantia, in base all'accordo del 14 luglio col governo, si erano impegnati ad uscire da Aspi, ma il confronto, dopo settimane di incontri, si è praticamente arenato. Sull'altro fronte, il Ministero dei Trasporti, anche in questo caso dopo una lunga e tribolata trattativa, il 2 settembre scorso ha inviato ad Autostrade una bozza, ma finora non ha incontrato, non ha ricevuto nessuna risposta. Sono passati 12 giorni. L'altra grande partita industriale è una partita sulla quale ci porta Marco Bentivogli dalle colonne della Repubblica, l'ex segretario della FIM CISL, che ormai firma un po' editoriali in giro su vari quotidiani, dal Foglio appunto alla Repubblica, e ci ricorda che l'Ilva è scomparsa dal dibattito pubblico. È scomparsa dal dibattito pubblico. In buona compagnia dell'imminente fusione Fiat Chrysler e PSA, l'Ilva sembra sparita dal dibattito pubblico. Eppure l'avvertenza sul futuro del gruppo siderurgico rappresenta la più grande partita industriale per il futuro dell'Italia, ci ricorda Bentivogli. L'Ilva è la più grande sfida europea di rilancio sostenibile della siderurgia, una sfida che il nostro paese ha messo in secondo piano rispetto allo scontro tra partiti, procure e potentati locali. Ora è in un binario morto nell'attesa del 21 settembre, che è appunto la data delle elezioni. Non è solo intollerabile, ma rende tutti gli altri piani, quelli del recovery plan, poco credibili. E a proposito di recovery plan, segnalo solo la paginata del Corriere della Sera, pagina 8 di Lorenzo Salvia, il quale ci racconta che le richieste, il recovery plan, la quota per l'Italia ammonta, come sapete, a 209 miliardi di euro. Ebbene, le richieste sono per oltre 660 miliardi. Il lavoro di scrematura del gruppo guidato dal ministro Enzo Amendola sarà notevole, dovrà essere notevole. Le ultime due cose sulle quali vi voglio portare sono dal Corriere della Sera e dalla Stampa rispettivamente, sono due pezzi che ci raccontano dell'impegno militante, dell'impegno politico di due grandi sportivi. Perché? Perché ieri Lewis Hamilton alla vittoria del Gran Premio si è presentato con una maglietta nel quale chiedeva esplicitamente l'arresto dei poliziotti che uccisero Breonna Floyd, una donna appunto uccisa da tre poliziotti in Kentucky nel marzo scorso. E qua Giulia Zonca sulla Stampa firma un pezzo nel quale, che inizia così per darvi l'idea: nera la maglia, nera la macchina, nera la pelle, nero il pugno di rivolta e nera la maschera. Lewis Hamilton è un colore in missione, non si fermerà, ha deciso di vivere come guida e di farsi inseguire. Ha preso coraggio e ci ha preso gusto. Il razzismo starà qui più di noi. Non abbiamo tempo, lo ha detto a inizio stagione, e il ritmo può solo crescere. L'altro personaggio è Naomi Osaka, vincitrice degli US Open femminile. Il Corriere della Sera con Gaia Piccardi a pagina 16 ci porta su di lei che ogni giorno, in ogni partita, prima della partita naturalmente, perché poi la mascherina l'ha tolta, indossava una mascherina nera con su scritto un nome di un afroamericano ucciso dalla polizia. E il racconto inizia proprio così: 7 mascherine nere, una per ogni partita giocata e vinta a New York, una per ogni vittima afroamericana della brutalità della polizia americana. Questo il messaggio di Naomi Osaka, come sapete tennista giapponese di padre haitiano, che ha vinto gli US Open femminili, perché in realtà vive ed è della Florida. Il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Abbiamo parlato in apertura di rassegna stampa e ne abbiamo parlato anche stamattina alle 6.30, l'avete sentita nel GR, una delle notizie dolorose di questa giornata. Il caso di cronaca è quello di Caivano, appunto, che lungamente abbiamo raccontato, della ragazza uccisa, si suppone ovviamente, poi tutto andrà accertato, investita, speronata con lo scooter dal fratello, e per questo è morta. Un fratello che non avrebbe mai accettato la relazione di questa ragazza con Ciro, un coetaneo che è un trans, era una donna e poi appunto ha deciso di fare la transizione, o meglio non ha deciso, insomma ha fatto la transizione, è dunque a questo punto un ragazzo e il fratello che non avrebbe accettato questa relazione l'avrebbe speronata con lo scooter in questo modo lei è morta. La famiglia sostiene che è un incidente, vedremo che cosa appureranno i magistrati. Noi siamo in linea con Alessandro Zan, che è deputato del Partito Democratico, relatore della legge sull'omofobia, che Zan mille polemiche ha suscitato perché è considerata una legge contro la libertà d'opinione. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Una legge che si è arenata al momento, Zan? No, non si è arenata perché la legge continuerà la discussione alla Camera ad ottobre, è stata approvata in Commissione Giustizia della Camera, è stata svolta la discussione generale in aula e ora ci attende l'ultima fase dell'iter alla Camera, che è appunto il voto degli emendamenti, che sarà sicuramente difficile perché la destra ha deciso di fare ostruzionismo perché non vuole questa legge, ma noi siamo determinati come maggioranza ad approvarla perché i fatti di cronaca, ultimo dei quali appunto l'omicidio di Maria Paola, dimostrano che questa legge è importante, serve. Ma perché Zan, da più di 40 anni. Mi dica Zan, perché serve una legge per una cosa di questo genere? Cioè come avrebbe reso una legge evitabile l'omicidio di Maria Paola, ammesso che di omicidio si tratti naturalmente? Allora, non è che una legge da sola può evitare un fatto di così aberrante, così diciamo come un omicidio, così estremo come un omicidio. Una legge ha il compito di punire i reati che di questo tipo, cioè i reati che avvengono non motivati da cosa fa una persona, ma motivati da ciò che è una persona. Infatti esiste già la legge Mancino per i crimini d'odio motivati da razzismo e da religione, e la legge appunto contro l'omotransfobia vuole estendere una legge dello Stato che c'è già e che appunto si occupa dei crimini d'odio motivati da razzismo e da religione. Noi non facciamo altro che estendere una legge dello Stato che c'è già ai reati di omotransfobia, e se noi andiamo a vedere i fatti di cronaca ogni giorno vediamo che in questo paese c'è un grosso problema, perché se delle persone vengono ammazzate, vengono bullizzate, vengono fatte oggetto di violenza semplicemente perché amano una persona LGBT, trans, gay, lesbica, o vengono proprio perché sono gay, lesbiche, fatte oggetto di violenza quotidiana, capisce che questo paese ha bisogno che le istituzioni reagiscano con una legge che esiste in tutti i grandi paesi dell'Occidente. Dunque non si capisce perché in Italia non ci possa essere una legge che appunto contrasti le violenze e i crimini d'odio, non solo attraverso l'azione penale ma anche attraverso azioni positive come i centri antidiscriminazione. Sì, perché Zan, mi permetta, è chiaro che in una situazione di questo genere non penso che la deterrenza in una storia di questo genere, per come la conosciamo, per come è stata raccontata, possa avere un grande impatto. No, certamente, però serve che nel nostro paese, dove in alcuni strati della nostra società vige ancora un'idea patriarcale, dove un fratello si può arrogare il diritto di uccidere una sorella solo perché questa sorella ha deciso amava una persona trans, dunque questo è un fatto veramente incredibile. Ma poi io penso che serva veramente dare una svolta culturale, perché bisogna partire dalle scuole, a cominciare ad insegnare la cultura del rispetto, dell'inclusione, dell'accoglienza. Non è accettabile che una persona venga fatta oggetto di violenza per il proprio colore della pelle, per il proprio orientamento sessuale, e dunque bisogna in un qualche modo, è importante una legge di questo tipo, proprio perché una legge, oltre ad avere dei risvolti penali ma anche di educazione, è un'occasione per fare cultura, per dare un messaggio forte che non è accettabile che una persona, per ciò che è, per quello che è, venga uccisa, venga fatta oggetto di violenza, venga bullizzata. Ecco, questo è c'è un grande tema di formazione, su quello non c'è il minimo dubbio. La ringrazio, è Alessandro Zan. Dobbiamo chiudere. Del Partito Democratico, deputato del Partito Democratico, relatore della legge sull'omofobia, appunto. Alla prossima, Zanna, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco, come al solito, con Paolo Mieli. Se volete intervenire in diretta all'800 24 00 24, sarà nostro ospite il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, col quale parleremo. Beh, si sta parlando molto del fatto che nei prossimi 10 anni le agevolazioni per il diesel caleranno fino ad azzerarsi, e questo genera qualche preoccupazione. E poi i sussidi ambientalmente dannosi, come scenderanno, il recovery plan e tutta la parte green. E poi sarà il nostro ospite l'uomo che ha guidato la task force sulla scuola. Il suo rapporto, che fine ha fatto? A tra poco. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.